CQ10 Sera buona, Carlo da Questa, che sei? Guarda, Francesco Osi, l'ho capito bene, la radio un po' bassa, il segnale va bene, Santiago 8 qua a casa mia a Sassari, solo che ho dei rumori di fondo, che ho degli operai fuori e quindi diciamo è anche quello un po' che magari non ti avevo capito bene, ma sei in barra mobile oppure non credo a casa? Sì, adesso la radio ha migliorato. Santiago 9, Radio 4, diciamo sembra che sia piena di rumori di fondo, capito, che magari sovrastano un po' la voce, però adesso questo ultimo passaggio, Francesco, ti ho sentito molto molto meglio rispetto al primo. Infatti ho detto da Osilo basta un'antenna fuori dalla finestra e qua mi arrivi a bomba, evidentemente sei diciamo in postazione precaria, dai, però già ti tiro fuori. Adesso forse con questo passaggio ti arrivo un po' più forte perché anche io ho girato un po' la manopola, prima ero con 5 e adesso ho raddoppiato. Già va bene, dai. E infatti altre volte con te mi ero sentito in condizioni di radio molto molto molto meglio, però adesso ti tiro fuori bene comunque. Benissimo, dai, già adesso hai migliorato parecchio, dai, rispetto al primo, come ti avevo detto prima, quindi già va bene, poi magari avrai modo di migliorarla ulteriormente, poi da quelle alture lì non dovresti avere nessun problema, da lì arrivi da una parte all'altra, capito, sia su questo versante Sassari, Porto Torres, eccetera, oppure verso giù, capito, la Ozieri e quella zona lì, penso che non avrai neanche problemi ad arrivarci, perché voi siete in ottima posizione lì. d'estate, quando magari c'è un po' più di propagazione, tante volte ho parlato con Fabio Bonnannaro, anche Uzieri, Luigi mi ricordo, Lima 1 mi sa, Luigi Lima 1, niente, però diciamo il segnale non era dei più, diciamo, forti il mio, perché insomma io ho tutto questo altipiano sopra le mie spalle, anche se io sono in zona alta, ma insomma c'è un bel varco da sovrastare ancora, e quindi però diciamo che già va bene. La mia antenna è una Smartec, capito, una J-Pol, va più che bene, è lunga più di 7,5 metri, su una palazzina di 6 piani, per cui sono in zona luna e sole, quindi già sono anche bello in alto, dai, arrivo tranquillamente Sassari, Castelsardo, solo che ormai siamo francesi, rimasti in pochi a modulare. Adesso ho mezzo convinto un amico, collega che lavora con me ad Alghero, adesso ha detto che tira, lui è radioamatore anche, però metterà una Mantova 1 in questi giorni quando migliora il tempo, e vuole coinvolgere anche vecchi suoi amici CB, capito, per vedere se riusciamo a animare un pochettino la 27. A te il microfono, Francesco. Come hai detto tu, 7/8, sì. Niente, io la sto usando già da un anno e mezzo, quasi due, capito? Da quando l'ho installata, sempre là, funziona perfettamente. Diciamo, ho fatto anche dei buoni di X dappertutto, America Latina, da qua quando c'è la propagazione già vado lontano. Con questa antenna, diciamo, con la propagazione mi aiuta parecchio, ho avuto delle belle soddisfazioni, dai. Prima invece usavo una SD come si chiama, di Polo SD della Sirio, che andava bene anche con quella, però questa è più prestante, capito? Quella addirittura la potevi mettere in polarizzazione sia orizzontale che verticale. L'ho provata in tutti e due i modi, diciamo il dipolo messo orizzontale, se becca un'altra orizzontale sono arrivati in Thailandia addirittura con una cinquantina di watt con la propagazione, capito? Però devi trovare sempre quello che ha la stessa polarizzazione e arrivi veramente molto lontano. Poi l'avevo girata, invece l'ho messa in verticale, funziona come antenna, però è perfetta. Adesso l'ho smontata, ce l'ho giù in garage quella lì, e all'occorrenza casomai la riutilizzerò. €180 penso adesso, non costa tantissimo, è una bella cifra ma non è esagerata per le prestazioni che dà, diciamo, già capito, già è buono come prezzo. Qualche anno fa la trovavi anche intorno ai 160-165, adesso un pochettino aumentato, ma è aumentato tutto, Francesco. di Bailam è sotto, sento, sta entrando un po' di propagazione, però è così, va e vieni, capito, segnali forti e poi scompaiono. Sì, sì, la mia già è bella stabile perché l'ho montata su una su un tubo bello grosso da 50 e fatto in maniera artigianale, capito, saldati i dadi, i bulloni, e quindi ho fatto un tubo telescopico, ma è bello spesso, capito, non è di quelli che compri già pronti che magari poi se li corrode un po' la ruggine e gli agenti atmosferici. Questo è un vecchio tubo adattato, poi ho trovato le altre sezioni, tutto bello pulito, eccetera, e praticamente arrivo sino a 6 metri di tubo ed è bella stabile. Comunque, ecco, ho visto quando tira il maestrale si piega appena appena la punta superiore, però il resto rimane fisso perché avendo due stili collegati insieme, diciamo, è abbastanza stabile come antenna nonostante sia alta, e non si è mossa mai neanche di un millimetro da come l'ho messa. Non mi ha dato nessun problema, la precedente invece mi dava problemi di spurie e quindi creavo qualche disturbo qua nel condominio, quindi l'ho eliminata. ragione, proprio così, vai poi e farglielo capire che loro stanno usando delle vecchie casse non schermate, di computer vetusti, capito? Perché io a casa ho un sistema audio lo stesso e non mi ha creato mai nessun problema. Solo a queste casse, addirittura c'è un signore che si ascoltava la partita via internet della Dinamo, capito? E su quelle casse vecchie di computer che collegavi con i fili, ormai tutto va su Bluetooth, eccetera. E quindi me l'ha detto una volta, due volte, ho detto vabbè, adesso vedo un po' cosa, se posso mettere un filtro, gli ho detto, così non dovresti sentirmi più su quelle casse. E invece niente, ho semplicemente cambiato radio e questa, diciamo, vuol dire che ha una schermatura migliore, no? Non si sono più lamentati, capito? E ho fatto prima così. Tutto qui, a te il mic, Francesco. Si può evitare le discussioni, si evitano, Francesco. No, io non è che ho fatto molta, diciamo, discussione, ho semplicemente detto adesso vediamo se posso rimediare, ho detto mettendo un filtro, tanto la gente capisce, non capisce, capito? Non si sono più lamentati, e io ormai questa stazione radio ce l'ho già da 3 anni in totale, capito? E da un anno e mezzo a questa parte non si lamenta più nessuno, per cui diciamo che lascio così e non tocco niente, anche se dovessi attaccare qualcosa, ho visto che non disturbo lo stesso, capito? Che esco con 5 o con 10 o con più e non si è lamentato più nessuno, per cui l'esame l'ho passato e non mi rompono le scatole, capito? Tanto l'antenna è sovrasta anche quella della TV, alla TV non col digitale terrestre penso che non vada in contrasto, anche perché abbiamo l'impianto centralizzato, quindi se disturbo un altro disturbo anche il mio, per cui alla TV non ho creato mai nessun problema qua nel condominio. Va bene, Francè, io devo uscire perché, come ti dicevo, dei lavori e mi sa che hanno finito, e così esco di casa perché devo fare una commissione, perché ci stanno cambiando l'ascensore e mi avevano chiesto se potevamo rimanere in casa oppure se dovevamo uscire, perché ho la porta dell'ascensore proprio attaccata quasi alla porta dell'appartamento, no? E quindi adesso stanno togliendo le vecchie porte per mettere le nuove, hanno messo delle tavole, capito? E quindi dice, perché se no vi tocca saltare, magari vi fate male, invece abbiamo, diciamo, a fine lavori già ve le togliamo, perché non sento più niente. Prima si stavano trapanando, avevano di quei martelli demolitori, stavano facendo una cagnara, hanno portato giù tutto il ferro, le vecchie porte, e quindi adesso vado, che devo uscire a fare una commissione. Grazie delle quattro chiacchiere che mi hai risposto, vedo che qua è tutto in regola, funziona bene, mi ha fatto piacere sentirti Francesco, magari se ci sei più tardi già riattacco stasera, sono libero dal lavoro, quindi non dovrei avere problemi, magari ce la risentiamo stasera. Ti saluto Francesco, ascolto il tuo finale e poi esco. Prossime, Francesco, ciao ciao. Ciao Carlo, faccio il tempo a salutarti, poi ti lascio andare, ciao Carlo. Ciao Giulio, ciao, salutoni, ci sentiamo più tardi, dai, tra un'oretta dovrei essere a casa. Ciao Giulio, alle prossime. Ciao Carlo, Francesco non lo sento io, ci sentiamo più tardi, ciao ciao Carlo. Francesco di Osilo, non ti sento, cosa è successo, come mai non ti sento oggi? Troppo basso, non capisco quello che dici. Comunque ti saluto Francesco, dai, metti a posto tutto e ci sentiamo magari in un altro momento, in condizioni migliori. Ciao Francesco, alle prossime. ascolto. Buongiorno, buongiorno capo. Uè, Antonè, beh, come andiamo? Bene, a parte il vento, che c'è, ma che va bene. Stasera sta facendo freschetto, 10 gradi. Io ho pigliato quasi 30 e quando sono salito sopra per metterci la mano qua. Questa è una giornata bruttina a mettere antenne. Domani però dice che inizia a risalire la temperatura. È scesa parecchio, è da 30 che ne avevamo l'altro giorno. Oggi è a 10 gradi. Io so che c'erano 30, che adesso partendo. Ho fatto pranzato e poi sono salito su. Due scale, anzi l'altra scala, la verso vella, prima della staccatura mi ho graffiato bene il palo e poi ne ho salito l'altra, ho piazzato la mappa senza radiali, poi ho preso a 1-1 e ce li ho infilati. Non è stato facile perché il foro era leggermente centrale, non era come prima, capito? Perché il metallo si era allargato e quindi non combaciavano, no? Però sono riuscito piano piano, ci ho infilato il cacciavite di quelli fini. Una volta che ho centrato, come si chiama, ci ho infilato la vita e ho avvitato i radiali tutti quanti, a 1-1, e poi ci ho messo quello che mancava. Adesso ho visto che sta funzionando bene l'apparecchio perché mi dà più di 50, prima arrivava facendo a coso 30, 40 watt, cioè il palo era completamente rugginoso, quindi non faceva massa e in automatico l'apparecchio andava in protezione, e stando bene, normale come era una volta. E come mi senti, Antonio? Bene? Sì, a voi, a 6:30. Io sono in macchina, sono, hai presente dove c'è il serbatoio, lassù mi stavo facendo un giretto in macchina, non avevo voglia di stare a casa, ho detto così provo la radio in macchina. Sì, prova. Serbatoio dove c'è qua su Monte Bianchino, sì, in pratica, dove c'è il campetto di calcetto. Esatto, un po' più su del serbatoio, la zona Monte Bianchino e tutta questa. Ehi, tu già mi arrivi bene a voglia, già sei qua giù. E niente, prima ero a casa, ho parlato con Francesco Uranio di Osilo, è entrato Giulio a salutarmi e poi dovevo uscire perché ero cazzo bloccato perché ci stanno cambiando l'ascensore e quindi stavano lavorando, io ce l'ho vicino alla porta d'ingresso del mio appartamento e quindi avevano messo delle tavole e mi hanno detto guardi se devi uscire esca adesso perché poi purtroppo dobbiamo fare questo lavoro entro stasera perché stiamo levando le vecchie porte e poi dobbiamo mettere il tavolato e quindi un attimino puntelliamo prima e quindi ho detto no fate, però poi come ho visto sono andati via ne ho approfittato, ho detto sia che dovevo fare delle commissioni e ho finito e niente, allora ho detto mi faccio un giretto e ero uscito da solo e niente, sto provando l'antenna, quella Soundtrack che avevo preso, già pare che vada bene. E a voi, aspetta, intanto Natalino. Non mi ha sentito, allora, deve essere. Perché adesso abbiamo acclarato. Perché sono piccolo e nero. E lui l'ha detto. Ciao Natalino, già ti sento, tra un passaggio e l'altro non mi eri giunto qua. Ok, ciao Carlo, come va? Diciamo che va. Già va bene Natalie, e tu tutto a posto, da parecchio che non ti sentivo. Non mi sento bene, no. Nicola messo male sono Carlo. Proprio il ristoratore. Non mi sento bene per niente. Forza e coraggio Natalie, dai, già ci saranno tempi migliori. E magari anche un po' il freddo, no? No, vedi che il figlio della di solito non ha sorte del servizio. Magari non so. E la gamba come va Natalie? Sempre a dolori? No, negativo, allora, no. Non ricordo assolutamente, ma gli aver la gamba non mi sta dando fastidio perché non so. Vediamo se lui ti ricorda, allora Antonio. Ho capito. E vabbè, dai, piano piano vedrai che si rimetterà in forma, dai, con la primavera inizia qualche bella giornata, magari si mette un po' al sole, eccetera. Lo so, purtroppo quando c'hai gli acciacchi bisogna combattere contro di quelli, perché se li lasci sovrastare poi non combini più niente, invece un po' di reazione ci vuole, dai, e se no non ne usciamo più. Tanto di malasorti qua ne abbiamo tutti, Natalì, anche io tempi scorsi, insomma, tra una cosa e l'altra ne uscivi da una cosa e entravi in un'altra, cazzo. La salute, una volta che sei a 60 anni, sembra fatta apposta, cazzo, e se ne succedono di tutte e di più, però ci vuole sempre un po' di reazione, dai, per andare avanti. Io ti sento, perché guarda, a me stanno succedendo di tutti i colori. Abbassa un po' l'amplificazione del microfono, cavolo, sente molto la TV. E adesso non esci da niente. Solleva. Va bene. Bene. Guarda Antonio, così meglio. Qua. Sì, va bene. E che ci siete televisori dietro, capito? Niente di altro. Però cioè, sta andando bene, come la radio già sei forte. La voglia. Io dovrei essere uscendo abbastanza, cioè meglio di prima, cioè, perché adesso c'ho la pena. Meno la stazionale, meno male, l'ho tutta modificata, cambiato un cavetto di dentro, l'avevo sciolto, quindi figurati, e ripiazzata. Sono stato anche fortunato, quando l'ho smontato sono stato a primo colpo e a lucida, mi ho passato il primo elemento, la spazzola a mano, e poi ho preso, ce l'ho rinfilato, meno male, sono riuscito. È stato fortunato, comunque la piazza l'ho vicinata bene dalla parte di sotto, e invece dove sono le viti in PL, prima ci ho messo il piede, poi ho preso, ho iniziato con la vernice grigia, capito? Sì, ho capito. Aggiù capito, ho abbassato la TV, era già bassa, ma questo microfono è maledetto. E anche se bene comunque, sì, c'è una bella applicazione, dovete procurare tutti quei microfoni da appendere vicino al coso, alla maglietta, al golfo, quelli che usano in televisione, quelli che andrebbero bene, con un dovete costruire un microfono a pedale, con l'amplificatore, questo sarebbe stato bello. Quella penale ce l'ho già, solo che tocca fare tutti i collegamenti, mamma mia. Ma vuole più pratico, Antonè. Schiacci e parli, capito? Sì, ma adesso come l'ha regolato va meglio. Prima si sentiva più i rumori di fondo della sua voce, invece adesso la voce sovrasta i rumori di fondo. Capito, già va bene. E se lo alza troppo è quello che Natalino ha fatto un super microfono. E infatti, già perfetta comunque. A voi, ce n'è, avanza pure. Lo so. Allora va bene, al mozzo, però mi sono anche costruito il computer. Lo sto usando in un case vecchio che avevo. Quello nuovo mi deve ancora arrivare. Catamazzo ci mette chissà quanto per mandare più la roba adesso. Non è più 3 giorni come prima. Quindi perdonami ma ci devi stare. Immaginate che a me da lì mi ha ordinato le batterie per lo scooter, quello che ho io, quasi 3 mesi, figurati, ero già disperato, ho girato, ma non vendo, lo tengo a fare senza batterie, senza niente usato, così almeno vado a fare la spesa con quello. E magari guardi sotto prima di fare l'acquisto, a dire vediamo chi è che lo vende. Molte volte c'è scritto il nome del negozio, magari c'è scritto Polonia o che ne so un'altra parte, e io infatti guardo poi se c'è lo stesso articolo che magari è venduto in Italia, magari ti costa 2 euro in più, ma ci vera, però ti arriva prima, capito? Sì, infatti, ho preso un bel case, mi arriverà verso il 20. La possibilità di difendermi e di partire. Non lo mandano prima, maledizione. Su questo fatto. Infatti è quindi male. Arriva, dai, se al 20, oggi siamo a 10, una decina di giorni, già ti arriva. La comodità è che ti arriva fino a casa. Io invece purtroppo molte volte non ci sono a casa, e quindi ti passa il corriere, mia moglie a scuola, mia figlia a scuola, mio figlio non c'è, quindi ti lasciano l'avviso e poi ti tocca fare un panegirico. Allora lo faccio arrivare al lato, quello di Città Mercato, e andando, rientrando dal lavoro, passo lì, e mi arriva la mail, il tuo pacco è pronto per il ritiro, nel lab c'è il display, poggi il codice a barre, si apre il cassettino e poi in un attimo ti ritiri. Ovviamente se sono pacchetti piccoli, capito? Se invece è roba di grandi dimensioni non te li fanno arrivare lì al lab, e quindi è sempre il corriere che passa. Sì, fa. Un case di computer non è proprio tanto piccolo. E infatti quello è un pacco abbastanza grande, capito? Cioè, ci sono anche i cassetti un po' grandetti, ma non lo so se quelle cose ci entrano. Quindi Antonello, ti sei ripiazzato l'antenna che avevi con tutti i radiali? Sì, ho ripiazzato la mantova con tutti i radiali, ho finito avanti ieri alle 7 e mezza, poi devo andare a tirare con tutto caldo, ho preso, tutta dolori, mi facevo male le gambe, che sono salito con la maglietta a corda, sono salito, capito? Tutto mi guardava male, perché poi la mattina ha cominciato a fare fresco, in pratica io prima di andare a pappetto mi sono beccato alle 6 e mezzo, beh, era un freddo, un cane, ho fatto il cambio del medico, dopodiché sono salito direttamente qua, mi sono bevuto una birra al giorno, poi ho pranzato e sono salito sopra il letto immediatamente. Sono con calma, sono passato, messo la roba pronta, ho staccato la mia 27L e poi ci ho messo la mantova, piano piano, ci ho infilato dentro, ho fotografiato il palo. E poi ci ho messo le linee a uno a uno, lì era un po' un affarratoio perché non veniva tanto bene, a incazzarli dentro, a spingere, se poco a poco sbagli ci avevi caduto sopra il petto, capito? Perché c'era il vuoto sotto, allora dovevo prendere e girare la mantova, ogni linea che mettevo dovevo girare la mantova. Già, va bene, ieri stavo parlando di Mantova, un mio collega di Alghero, che lui ha la patente di radioamatore, mi già lo conosce anche Claudio, e insomma mi ha detto che l'ha messa a posto anche lui, e lui c'ha il traliccio e ha detto che c'è la sistema, e forse è riuscito a convincere 3-4 algheresi, che dice, glielo dicevano sempre, dai entra in 27 così facciamo un gruppetto eccetera, e ha detto che come fa tempo buono la piazza anche lui, e cercano di ravvivare un pochettino la 27, da, perché se no non c'è più nessuno eccetera, e ho detto fatti sentire, glielo ho detto che siamo sul 10 noi, e qualche volta ci sentiamo e magari già capita. Mi ha detto che quando la finisce di piazzare già mi manda un messaggio, e così facciamo il collegamento da Alghero anche. Era ora. Sì, questa è la gente che c'è, all'ascolto che non la voglia di modulare, visto che è tutta questione di telefonia o di computer ormai. È questione che la gente che conoscevi prima, Baracchino, la maggior parte erano tutti senza fare nulla, chi non lavorava, chi ne era magari fidanzato, chi oppure non lo voleva per niente, capito? Allora c'era il giro, c'erano le ragazze, sai com'è? Prima il telefono non c'era, usavamo il barattino come telefono e poteva attescare le ragazze. Adesso siamo quattro volti, siamo tutti in mezzo messi male. Quindi, però ho visto che fuori in Belgio si sta ricomprando, ritirando la stazione, c'è gente che esce in macchina, si piglia il portatile, si mette nelle punte più alte lì, in Friuli, lì, capito? E fa i collegamenti a distanza, fanno a gara. Sì, certo che diciamo la radio 27, insomma, prima ci ha appassionato proprio per quel motivo, perché non c'era altra tecnologia, cellulari eccetera, quindi c'era tanta gente, poi un po' è andata in disuso. Infatti questa gente che ti sto dicendo, Alessandro che è radioamatore, mi ha detto che i suoi amici sono più o meno tutti oltre la cinquantina, capito? Tutta gente che magari la radio l'ha avuta, poi l'ha abbandonata e magari adesso la vogliono ripristinare, capito? Chi si vuole mettere antenne, eccetera. Ho detto già va bene, dai, così magari qualche cristiano in più troviamo su questa banda. Vediamo se riusciamo un po' a ravvivarla, dai. Qualcuno già entrerà, se ne ha voglia di entrare, faccio compagnia, non è quello il problema. Già va bene. Io non stavo entrando perché non mi sento bene, se no ero sempre all'ascolto e parlavo con chiunque. È difficile perché quando le cose... Se sento gente già entro, però non è che mi senta tanto bene, è per quello che non stavo entrando. Più o meno ogni tanto io sento i soliti, dai. E stasera mi ha salutato velocemente perché purtroppo stavo chiudendo, Giulio, che già lo sento almeno ogni tanto. E niente, da poco avevo sentito Gianni, e non mi ricordo chi c'era, e Tonino è che non lo sento da un bel po', non so se stia ancora entrando, prima lo sentivo di più. E magari la gente così a periodi magari c'ha troppi impegni e magari come ti gira, dai, però come hai un attimo libero, se c'hai la passione, l'attrezzatura pronta, dai un attimino a accendere, a fare quattro chiacchiere quando c'è il tempo, perlomeno per me è così, io molte volte sono molto impegnato, quando diciamo mi libero dal lavoro purtroppo con la famiglia, figli da accompagnare qua e là eccetera, e sei sempre in giro, capito? Però dai, qualcuno ogni tanto si sente. Riprendi pure Natali. Sì, adesso mi arriva quel cheese, mi tocca smontarlo da qua e piazzarlo nell'altro nuovo. E per quello che rimprovera la fede, ci avevo tutti i pezzi e me lo sono assemblato, ne ho due qua. Loro hanno postato sui social fino al giorno preuscito. Però il vecchio, che non è compatibile con Windows 11, non lo smonto, me lo lascio pronto, sai che mi facciano lo scherzo. Cioè, continua questo modo di piazzarmi la forza. Fai bene, lo lasci tranquillo così com'è, capito? Bene Meda, adesso mi sposto, poi do un'occhiata alla tua antenna, Antone, quando scendo da quelle parti, perché tra un po' rientro a casa. Adesso sono fermo, mi sono fermato così a vedere se prendevo qualche stazione lontana da qua, però non è che ci sia propagazione stasera. Adesso propagazione non ho sentito, ma verso le 4:30 a 5 c'erano, la Russia c'era. 9:20 arrivavano qua, 9:20, 9:30. I super belli, pomposi, figurati. Quelli sono con 300 watt, chissà con quanta roba singolo, quelli sono senza regole, già li ho sentiti anch'io. Il problema è che se tu fai chiamata loro neanche ti sentono, capito? Perché magari noi non è che usiamo tutti questi watt, ma loro sparano, capito, un sacco di potenza, per quello che li sentiamo molte volte così con quei livelli alti. ma molte volte c'è la propagazione dal nord Italia, capito? Quindi senti la zona della Lombardia, il Piemonte, capito? Molte volte il Veneto si sente abbastanza bene anche da casa. Ma io più che altro, io si sento bene, c'è anche parlato sopra di qua con la Russia. Figurati, quando sono venuto a abitare qua, mi sono detto aiuto, speriamo, ho detto di... Cioè, come ho cambiato casa, gli ho detto di sentire a posto di vivere, perché già gli inizio dovevo con gli americani, erano 9,40, 9,50, spagnoli tutti i giorni, ci parlavo come se fossero dietro a casa con la Spagna di Vianizzetto, perché c'è un canalone, capito? Aspetta un minuto. E quindi mi lascio ricordo l'altarino, perché l'altarino un sacco di volte si pensava sotto casa mia, ha detto vai di fronte alla porta, da portone che c'è lì del manicomio, ho detto ti metti lì con l'antenna alla macchina, con un certo guardo, ho detto parli tranquillamente con la Spagna come se fossi dentro al telefono. Quel punto lì è micidiale, è molto aperto, capito? E io in più parlavo con Centro Sardegna fino a... non mi ricordo adesso come diavolo si chiama quella zona lì, comunque la zona di Bono, dove di loro tranquillamente, anche con Cagliari, proprio non ci ho parlato, ma con Villacido sì. Villacido lì arriva a Santiago 5 e li senti tranquilli, quando attaccano le lineare mi senti anche 8 e mezzo di là, roba che non sento qua, capito? La zona di Cagliari qua non la sento per niente io. Sono proprio negato, ma lì via Vizzetto, via Napoli, cose del genere, lì arrivano in quel punto di via Verona, lì arrivano la bomba, arrivano la zona di Centro Sardegna. Vuol dire che quella è una zona bella aperta, capito, verso la pianura, perché verso questa zona invece abbiamo tutta questa montagna qua, questa zona alta, e quindi è difficile arrivarci. Io da casa con qualche spintarella sono riuscito a parlare con Ozieri, con Passada, però non è che li sentissi molto forte, perché neanche loro uscivano bene. Bonnannaro, Mores, quella zona lì, ci arrivo, però ho capito, siamo un po', abbiamo un po' una schermatura noi verso quella zona lì. Perché risulta nel fianco a noi, capito? Invece nel rizzetto se tu ti metti lì, non è come senti la gente da fuori. Tu figurati che ci metteva a Crelio, tanto che può farli a fare di ex, si metteva lì, o a Vizzetto pure andava dove c'è la Villa dei Sali, sì, capito, lì via Budapest, quel punto lì è allucinante, anche quello. Sì, sì, sì. Invece Muros va bene, già vicino da noi. È da parecchio che non lo sento a Claudio di Muros. È un bel po' che non lo sento. Lui se ne andava in banda laterale, ma tante volte ho provato a cercare, a vedere se lo sentivo e niente. O anche lui deve essere che in questo periodo un po' l'ha abbandonata la radio, perlomeno. Io è da parecchio che non lo sento e saranno mesi, mesi. Non so se Natalino tu l'avete sentito. Non ho sentito più. Lui siamo a 465, 455 come frequenza. Sul canale 45 e 46, capito? Ho capito, ma sul 10 entrava sempre prima. Diciamo con Sassari ci parlava tranquillamente, va bene che in linea d'aria già è vicino, già è abbastanza in alto muro, se quindi arrivava bene anche per quello. Va bene, io adesso mi sposto e non lo so se poi mi risentite, immagino di sì, e poi riprenderò da casa, dai, nel caso già sono sempre in ascolto, adesso mi muovo però. D'accordo, ok. ci sentiamo dopo, allora che io adesso faccio la cena a Simona, gliela scaldo e poi gliela do 2 minuti. Eia, Natalì, ci sentiamo più tardi se ci sei, mi sto spostando adesso che rientro a casa, devo portare su un pochettino di roba che ho preso perché siamo senza ascensore e ne avremo per almeno 2 mesi. Già l'hai bigliata buona, tutta a piedi. E meno male che sono al terzo piano, almeno se non altro mi risparmio altri 3 piani, fossi stato al sesto mi avrebbero trovato morto nelle scale. Quando devi portare su spesa, eccetera, sempre a noi tocca. Quello è poco ma sicuro. E vabbè, bisogna soffrire per altri 2 mesi. Vabbè, Carlo, dai, io già sono in ascolto. Quando vuoi entrare già sono qui. Eia, dai, perché mi hanno messo un po' la frizza dei controlli, perché se ti beccano adesso parlando col cellulare o radio ti levano punti dalla patente, non so cosa, eccetera, e ho sempre un po' di paura. Infatti preferisco, mi fermo, parlo e poi qua, vabbè, già sono tranquillo, sto scendendo da Monte Bianchino adesso, ho fatto un giro largo giusto per provare la radio. Ok. Io c'avevo la campagna lì a fianco a Monte Bianchino, da lì già uscivo forte, ma forte veramente. Io ero a 426 metri sul livello del mare nel piazzale, poi c'ho l'antenna oltre quei metri lì, c'ho l'antenna su un palo da 12 metri che è ancora lì l'antenna, magari è tutta fradica. 2 mesi c'aveva l'antenna quando me ne sono andato. Ma era la tua la campagna, te l'hai venduta Natalì? No, ce l'ho ancora, solo che sono venuto a abitare qua perché mi ero sposato, capite? Allora sono andato via da lì. Brutto errore. Per lo meno per questo hobby andava benissimo. Ci sono ancora antenne piazzate lì, c'avevo tutto. Sì, già lo credo, lì sei proprio in un punto molto, molto buono, capito? Lo so, adesso sei sceso giù, ma già ti sentiamo bene comunque, Natalì. Adesso sono... Vabbè Carlo, dai, ci sentiamo dopo, è entrato Emanuele, Brigido, poi Biordo. Allora, come non ci va? Ci va bene? Sì, me ne sono alzato adesso, Natalì. Adesso mangio, poi mi preparo alle 10. Salutami la Emanuele, lo sento basso, ma non lo capisco, Natalì. Vabbè, io chiudo, riprendo dopo, casomai. Ciao Emanuele, se mi senti. Ciao Natalì, a più tardi. Ciao Antonello, se sei ancora in ascolto. E ciao Carlo, ci sentiamo. Saluti da Carlo Manuel. Sì, già l'ho sentito, ben sentito Carlo, anche se ti ascolto un po' basso, no, però già sentito. Ciao Carlo, a dopo. Ciao Manuele. Poi Pupuschi. Adesso già ti sento bene, con la tela messa a posto. Ah, tu, ma la tela è sempre così. Avevo svuotato tutta la mandorla, perché l'avevo sciolta, figurati. Adesso l'ho ripiazzata ieri e gli ho visto che funziona bene, è perfetta. E c'è anche più ricezione, ti ascolto benissimo. Meglio così, dai, meglio così. Dai, mi assento un attimo che mangio, che poi mi preparo la roba per stanotte, dai. Bene, Natalì. Sì, fai Emanuele, già sono in ascolto io. Adesso anch'io mangio. E così vediamo un po' come la va il resto della serata. Ok, dai, mi prendo dopo. Sì, anch'io adesso ceno, però già sono in ascolto, dai.